Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. E lei ama Madame? Domandò di punto in bianco l'olandese Hans Castorp allibì e balbettò: se io, cioè io venero ovviamente la signora Chauchat, non fosse altro in quanto è... Scusi, interruppe Peppercorn, stendendo la mano col gesto di chi argina. Permetta, continuò dopo aver sgombrato lo spazio per quel che aveva da dire. Mi lasci ripetere che sono ben lontano dal rimproverare a quel signore italiano una vera infrazione ai precetti della cavalleria. Tuttavia mi sto dicendo, insomma, lei conosce Madame da più tempo di me. È stato qui già durante il precedente soggiorno di lei. Oltre a ciò è una donna di qualità affascinanti. E io sono soltanto un vecchio malato. Come va che questo pomeriggio, dato che sto poco bene, è scesa al paese a fare acquisti sola, senza compagnia? Niente di male, nemmeno per sogno, se non che, senza dubbio, devo ascriverlo ai, come ha detto, principi pedagogici del signor Settembrini. Se lei, in quanto a cavalleria, non... La prego di prendermi alla lettera. Alla lettera, Maynard Peppercorn? No, no, assolutamente no. Io agisco di mia iniziativa. Anzi, il signor Settembrini qualche volta mi ha... persino... Mi dispiace, ma vedo macchie di vino sulla sua coperta, Maynard Peppercorn. Non dovremmo... Noi ci versavamo il sale finché erano fresche. Questo non è essenziale, ribatté l'olandese guardandolo fisso. Castorp impallidì. La situazione, disse con un falso sorriso, è qui un po' diversa dal solito. Lo spirito della località, direi, non è quello convenzionale. La precedenza spetta al malato, uomo o donna che sia. I precetti della cavalleria passano in seconda linea. Lei, signor Peppercorn, soffre di un malessere passeggero, di un'indisposizione acuta, un'indisposizione di attualità. La sua compagna di viaggio è relativamente sana. Credo pertanto di agire secondo il pensiero di Madame, se nella sua assenza la sostituisco un po' presso di lei, seppure è lecito parlare di sostituzione, anziché sostituire lei presso Madame e offrirle la mia compagnia fin giù al paese. Che cosa mi autorizza a imporre i miei servigi di cavaliere alla sua compagna di viaggio? Non ne ho alcun titolo, né alcun mandato. Posso affermare di possedere assai vivo il senso del diritto positivo nei rapporti umani. Fatto è che il mio modo di agire mi sembra corretto. Esso corrisponde alla situazione in genere e soprattutto ai sinceri sentimenti che nutro per la sua persona, signor Peppercorn. E così credo di aver dato alla sua domanda... Lei mi ha rivolto una domanda, vero? Una risposta soddisfacente. Una risposta... molto gradita, dichiarò Peppercorn. Ascolto con spontaneo piacere il suo agile discorsetto, che procede a rompicollo e leviga le cose rendendole gradite. Ma non posso dire che sia soddisfacente. La sua risposta non mi soddisfa appieno. Mi scusi se con ciò le do una delusione. Rigore, caro amico. Lei ha usato dianzi questa parola a proposito di certe mie vedute. Anche nelle sue vedute c'è un certo rigore, una coercizione che non concorda, mi sembra, col suo carattere, benché in certo senso mi sia nota dal suo comportamento. La riconosco. È la stessa costrizione che nelle nostre comuni iniziative, nelle nostre passeggiate... Lei si impone verso Madame, verso nessun altro, e di questo lei mi deve una... È un dovere, è un debito, giovanotto. Io non mi inganno. Troppe volte ho visto confermata la mia osservazione, ed è improbabile che non abbia dato nell'occhio anche agli altri, con la differenza che questi altri, come è possibile... anzi probabile, possiedono la chiave del fenomeno. A questo punto Castorp si sentì stringere il polso, il destro, dalla mano di Peppercorn. «Lei l'ama ancora?» domandò Peppercorn senza mutare posizione, cioè col viso rivolto altrove. Nell'ampia camera calava sempre più il crepuscolo. «Scusi, signor Peppercorn», rispose Castorp, «ma i sentimenti che provo per lei, sentimenti di grandissima stima e ammirazione, mi avvertono che non sarebbe decoroso parlare dei sentimenti che nutro per la sua compagna di viaggio». «Un momento», esclamò Peppercorn, sempre guardando altrove, ma con un gesto della mano aperta verso l'interlocutore. «Non sarebbe forse volgare parlare di lei come stiamo facendo?» «Certo che no, Maynard Peppercorn. Su questo punto credo di poterla rassicurare. Si sta parlando di cose umane. Intendo umano sotto la specie della libertà e della genialità. Mi perdoni l'espressione forse un poco manierata, ma recentemente mi sono trovato nella necessità di appropriarmela». «Bene, continui», ordinò Peppercorn. «Sono quassù da molto tempo, da anni. Esattamente non lo so nemmeno io da quando, ma sono anni di vita. Cugino, al quale credevo di venire a fare una visita, un militare che la prendeva con bravura e onestà, ma non gli servì a nulla. Mi è morto qui. E io ci sono ancora. Io non ero militare. Avevo una professione civile, come avrà sentito dire, una professione solida e razionale. Ma io non mi ci sentii mai legato, lo ammetto, per motivi dei quali dico soltanto che sono un mistero. Sono congiunti con le origini dei miei sentimenti verso la sua compagna di viaggio. La chiamo apposta così per far capire che non mi passa per la mente l'intenzione di scalzare la positiva situazione di diritto, dei miei sentimenti per Claudia Chauchat e del fatto che le do del tu, come non ho mai negato da quando ho incontrato i suoi occhi che mi hanno ammaliato. Ammaliato irrazionalmente, capisce? Per amore di Claudia e a dispetto del signor Settembrini mi sono sottomesso al principio dell'irrazionale, al principio geniale della malattia, al quale però sottostavo di lunga mano, anzi, da sempre, e sono rimasto quassù. Non so più precisamente quanto. Ho dimenticato tutti e rotto con tutti, coi miei parenti, con la mia professione di pianura, con tutto il mio avvenire. E quando Claudia partì, l'ho aspettata sempre quassù, sicché ora sono scomparso interamente dalla pianura e ai suoi occhi sono come fossi morto. Giovanotto, ho udito e ora ci vedo chiaro. Mi consenta di fare in base alle sue comunicazioni una dichiarazione leale. Giovanotto, noi siamo fratelli. Io lo dichiaro. Lei accennò a un pieno significato del tu. Anche il nostro avrà un pieno significato. Il significato della fraternità nel sentimento. Prenda, ripeté Peppercorn, incroci il braccio col mio e beva in questo modo. Vuoti il calice. Perfetto, giovanotto. Chiuso. Qua la mano. Sei contento? Non è la parola, Maynard Peppercorn, rispose Castorp, cui era riuscito un po' difficile vuotare tutto il calice di un fiato, e col fazzoletto si asciugò le ginocchia sulle quali si era versato un po' di vino. Sono, dirò invece, felicissimo, e non so ancora capacitarmi come mi sia potuto toccare. Sinceramente mi sembra un sogno. È un onore immenso per me. Non so come lo abbia meritato, tutt'al più passivamente, non certo altrimenti, e non c'è da stupirsi se da principio mi pare bizzarro pronunciare con le mie labbra il nuovo tu. Se vi inciamperò, tanto più alla presenza di Claudia, che forse, alla maniera delle donne, non sarà pienamente d'accordo con questa sistemazione. A questo ci penso io, e il resto verrà con l'esercizio e con la consuetudine. E ora va, giovanotto. Lasciami, figlio mio. È buio. La sera è calata. La nostra diletta può rientrare da un momento all'altro. E un vostro incontro proprio in questo momento non sarebbe, credo, la cosa più opportuna. Ti auguro di star bene, Maynard Peppercorn, disse Castor alzandosi. Come vede, vinco la mia giustificata soggezione. E già mi esercito a pronunciare il tu temerario. Giusto, è ormai buio. Mi figuro che a un tratto potrebbe entrare il signor Settembrini e accendere la luce affinché subentrino la ragione e la socievolezza. È il suo debole. A domani. Vado via di qui così contento e orgoglioso come non avrei mai sognato neanche lontanamente. Ti auguro di guarire presto. Per lei vengono ora almeno 3 giorni senza febbre, nei quali sarei pari a tutte le esigenze. Ne sono lieto come se fossi tu. Buonanotte. Thank you. Il sonno di Castorp, quella notte, era forse tenuto leggero e fugace da qualche attesa che la sua anima ignorava. Se la più lieve deviazione dall'usata pace notturna del Berghof, un trambusto per quanto smorzato, l'appena percettibile vibrazione di una corsa lontana, fu sufficiente a svegliarlo del tutto e a farlo balzare seduto sul letto. Difatti fu sveglio molto tempo prima che bussassero alla sua porta, il che avvenne poco dopo le 2. Egli rispose subito, non assonnato, con presenza di spirito ed energia. Era la voce alta e tremula di un'infermiera della casa che, per incarico della signora Chauchat, lo pregava di scendere subito al primo piano. Con maggiore energia si dichiarò pronto a obbedire, balzò in piedi, si infilò il vestito, si ravviò i capelli sulla fronte e scese, non in fretta, ma adagio, incerto piuttosto del modo che del fatto. Trovò aperto l'uscio del salotto di Peppercorn, così pure quello della sua camera, dove tutte le luci erano accese. Vi erano presenti i due medici, la superiora von Millendonck, la Chauchat, e il cameriere giavanese. Questi, vestito non come al solito, ma con una specie di foggia nazionale, una giacca simile a una camicia a larghe strisce, con le maniche ampie e lunghissime, una gonna colorata al posto dei calzoni, e in testa un berretto a cono di panno giallo, sul petto un monile di amuleti, stava immobile, con le braccia conserte, a capo del letto, dove Peppercorn giaceva supino, con le mani distese. Castorp, pallido, abbracciò la scena con un'occhiata. La Chauchat gli volgeva le spalle. Era seduta su una poltroncina bassa ai piedi del letto, il gomito appoggiato sulla trapunta, il mento sulla mano, le dita rattratte sul labbro inferiore, e guardava in viso il suo compagno di viaggio. «Buonasera, giovanotto», disse Perens, che aveva parlato sottovoce col dottor Krokowski e con la superiora, e fece un cenno malinconico coi baffetti bianchi arricciati. Era in camice clinico, dal cui taschino sporgeva lo stetoscopio. Portava pantofole ricamate ed era senza colletto. «Niente da fare», vi sbigliò. «Opera compiuta. Si avvicini pure e lo guardi con occhio esperto. Ammetterà che ha messo le mani avanti, rendendo inutile ogni arte medica». Castorp si accostò al letto in punta di piedi, mentre gli occhi del malese ne sorvegliavano ogni movimento. Lo seguivano senza girare la testa, sicché se ne vedeva il bianco. Con un'occhiata di fianco vide che la Chauchat non si curava di lui e assunse il tipico atteggiamento accanto al letto, col peso del corpo su una gamba, le mani incrociate sul ventre, la testa china su una spalla, in rispettosa e penosa contemplazione. Peppercorn, in camicia di maglia, giaceva sotto la coperta di seta rossa, come Castorp l'aveva visto tante volte. Le sue mani erano di un livido nerastro, e così alcune parti del viso. Ciò lo deformava alquanto, anche se i suoi lineamenti regali erano immutati. La rigatura da idolo sull'alta fronte aureolata di bianco su 4 o 5 linee orizzontali, poi piegate ad angolo retto in discesa verso le tempie, incise dall'abituale tensione di una vita intera, spiccava ed emergeva anche a palpebre abbassate, a riposo. Le labbra, amaramente squarciate, erano un po' aperte. La cianosi era indizio di un ristagno improvviso, di un violento apoplettico arresto delle funzioni vitali. Castorp mantenne qualche istante il devoto silenzio di chi si informa della situazione. Esitava a cambiare atteggiamento in attesa che la vedova gli rivolgesse la parola. Poiché ciò non avvenne, desiderando di non disturbare, si voltò verso il gruppo dei presenti alle sue spalle. Con un cenno del capo il consigliere gli indicò il salotto e Castorp lo seguì. «Suicidio?» domandò con voce sommessa da esperto. «E come?» rispose Verens con un gesto sprezzante e aggiunse: «In pieno, superlativo». «Ha mai visto un ninnolo così?» domandò estraendo dalla tasca del camice un astuccio di forma irregolare e cavandone un oggettino che presentò al giovane. «Io no, ma mette conto di vederlo. Non si finisce mai di imparare. Un capriccio ingegnoso. Gliel'ho tolto di mano. Attento, se una goccia le cade sulla pelle, le viene una vescica». Castorp rigirò fra le dita il misterioso oggetto. Era fatto d'acciaio, avorio, oro e caucciù. Stranissimo da vedere. Aveva due rebbi di lucido acciaio, ricurvi, con la punta acutissima, una parte centrale d'avorio leggermente torta, con intarsi d'oro, nella quale i rebbi si incastravano fino a un certo punto, quasi elastici verso l'interno, e terminava con un rigonfio a peretta di gomma nera semirigida. Il tutto misurava soltanto un paio di pollici. «Che roba è?» domandò Castorp. «Questa?» rispose Behrens. «È una siringa da iniezione organizzata. O, vista sotto un altro aspetto, una copia meccanica dei denti del cobra. Ha capito?» «Pare di no», soggiunse, perché Castorp, perplesso, continuava a guardare il bizzarro strumento. «Questi sono i denti. Non sono massicci, ma attraversati da un tubo capillare, da un canale sottilissimo. Lei ne può vedere chiaramente l'uscita qui davanti, un po' sopra le punte. Naturalmente i tubetti sono aperti anche qui alla radice dei denti e in comunicazione con lo sbocco della borsa di gomma, che si interna nell'avorio della parte mediana. All'atto di mordere i denti scattano verso l'interno, è chiaro, ed esercitano una pressione sul serbatoio che spinge il contenuto nei canali, di maniera che appena le punte penetrano nella carne, la dose è già schizzata nel circolo sanguigno. Avendolo in mano il congegno è molto semplice, ma bisogna averlo ideato. Probabilmente fu costruito su sue ordinazioni. Certamente, esclamò Castorp. La carica non può essere stata molto abbondante, proseguì Behrens. Il difetto della quantità fu sostituito dalla potenza, suggerì Castorp. Precisamente. Che cosa sia scopriremo in seguito. Il risultato merita la nostra curiosità. Ci sarà qualcosa da imparare. Scommettiamo che quel guardiano esotico laggiù, messosi così in gingheri questa notte, saprebbe darci notizie precise. Io suppongo che sia una combinazione di sostanze animali e vegetali. In ogni caso, il meglio possibile, poiché l'azione deve essere stata fulminea. Tutto fa pensare che il respiro sia cessato immediatamente. Paralisi dell'apparato respiratorio, capisce? Morte rapida per soffocazione. Probabilmente senza strazi e dolori. Dio lo voglia, disse Castorp pietoso. Restituì al consigliere con un sospiro il raccapricciante aggeggio e ritornò nella camera. Vi erano rimasti soltanto il malese e la signora Chauchat. Questa volta Claudia alzò la testa a guardare il giovane che si avvicinava al letto. Lei era in diritto che la facessi chiamare, disse. Molto gentile da parte sua, rispose lui. E ha ragione. Eravamo amici e ci davamo del tu. Mi vergogno profondamente di essermene vergognato in pubblico e di aver usato scappatoie. Lei era presente nei suoi ultimi istanti. Il cameriere mi avvertì quando tutto era finito, rispose lei. Era di una tale statura, riprese a dire Castorp, che per lui il venir meno al sentimento di fronte alla vita era una catastrofe cosmica, un'onta di Dio. Egli, deve sapere, si considerava l'organo nuziale di Dio. Era una sciocchezza regale. Quando si è commossi si ha il coraggio di usare parole che suonano inaudite e senza rispetto, ma sono più solenni delle meditazioni concesse. «C'est une abdication», disse lei. Lui era informato della nostra follia. Non mi fu possibile contestargliela, Claudia. L'aveva indovinata dal mio rifiuto di baciare lei in fronte in sua presenza. La sua presenza in questo momento è più simbolica che reale. Ma mi vuol permettere di farlo adesso? Lei spostò brevemente la testa verso di lui, con gli occhi chiusi, come un invito. Egli posò le labbra sulla sua fronte. I bellissimi occhi castani del malese, girati da un lato, in modo che se ne scorgeva il bianco, sorvegliavano la scena.